sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 16 secondi qui dagli studi di Milano della radio. Grazie per essere in ascolto e sentirci anche in podcast e grazie anche per le richieste, critiche, segnalazioni di temi e ospiti che continuano ad arrivare. L'indirizzo è versione di Oscar, cioè radio24.it. Oggi ve lo dico subito per chiedervi di intervenire, telefono all'800 24 0024 e di mandarci opinioni al 349 238 6666, però sospendiamo obbligatoriamente le puntate che avete visto in questi ultimi giorni sono venute su vostra richiesta, perché gli sviluppi di quello che è in corso in Europa ci obbligano, come radio che fa informazione e come radio che fa informazione economico-finanziaria soprattutto, a una riflessione. Quindi questa puntata è dedicata a quello che oggi è avvenuto sul tavolo europeo tra la Grecia e gli altri partner, e è avvenuto quello che secondo me era facile prevedere, cioè dopo un lungo periodo di settimane di schermaglie, per così dire, rispetto alle posizioni molto nette con cui Syriza ha vinto le elezioni ed è nato il governo guidato da Tsipras, e che erano promesse molto forti, l'abbattimento di una quota molto consistente del debito pubblico detenuto dai paesi europei, dall'Eurosistema e dalla BCE, la conferenza europea per l'abbattimento del debito. Dopo un po' di settimane di schermaglie si è entrati, per così dire, nel vivo. Come sapete, l'Eurogruppo che si era tenuto lunedì aveva registrato l'emergere dei primi veri contrasti, e quello che era avvenuto era che con evidenza il commissario europeo Moscovici era il ponte delle richieste greche nei confronti di una richiesta di tempo, almeno 4-6 mesi, per ridefinire accordi strutturali dei programmi di rientro delle riforme da parte greca, senza fretta ma intanto confermando il sostegno finanziario di cui la Grecia ha bisogno e che va al di là dei 3 miliardi in più concessi sulla linea straordinaria di liquidità dalla Banca Centrale Europea. È la perché quella liquidità straordinaria le banche greche sottoposte a ritiri dei depositi eccetera eccetera ne hanno bisogno per stare in piedi, perché altrimenti quella diventa la prima emergenza e il governo a propria volta ha le prese con casse vuote, perché sono diminuiti gli introiti fiscali a dicembre e gennaio e mancano un po' di miliardi. Quello significherebbe non avere più tempo per discutere di nulla, si entrerebbe nella emergenza finanziaria immediata. Però quello breaking news. Ecco, ancora stiamo seguendo come da alcune ore ciò che sta accadendo da diverse ore ormai nel centro di Roma, con lo schieramento generale di oltre 1300 agenti, 23 persone fermate, i supporti del Feyenoord che è giunti nella capitale per la partita di questa sera, hanno inscenato da diverse ore, anche in questi minuti, una vera e propria battaglia. E anche oggi petardi, scaramucce in centro, naturalmente vi daremo nei prossime edizioni del giornale radio con il nostro Francesco De Remigis un po' le notizie, l'andamento di ciò che sta accadendo nel centro di Roma a causa dei supporter dei Feyenoord. Solidarietà ai romani in ascolto, naturalmente speriamo che la situazione resti sotto controllo, ma certo, queste tifoserie Detto questo, allora lunedì Eurogruppo, quello che è evidente è che il commissario Moscovici fa da ponte alla richiesta greca di più tempo, più tempo per ridefinire un quadro di accordi. Sapete che la posizione greca è quella di non riconoscere formalmente gli accordi precedentemente sottoscritti con la Troica, ma lunedì Schäuble e la Germania dice no, non ci siamo da questo punto di vista, e quindi il primo emergere di un dissidio vero nella posizione europea. L'Italia molto prudente, ha taciuto lunedì. Si aspettava la precisazione di una proposta scritta da parte greca, questa proposta è venuta ieri sera, è una proposta che conferma lo schema di chiedere 6 mesi per raggiungere un nuovo accordo, e in questi 6 mesi chiede la conferma però del sostegno finanziario, non solo quello straordinario di liquidità delle banche greche. È una lettera in alcuni punti in cui, a dire la verità, non esclude il fondo monetario, come sembrava. Il fondo monetario è citato, e il governo greco nella lettera dice che bisognerà ridefinire nel tempo, in questi 6 mesi, degli obiettivi che tengano conto delle condizioni della Grecia. Per esempio, la frase che riguarda l'avanzo primario, che sapete nel vecchio programma era fissato in 4,5 punti di PIL l'anno, qui non si chiede di scendere all'1,5, come dicevamo, non si fanno numeri, ma c'è una formula che dice deve essere un avanzo primario concordato tra la Grecia e le istituzioni europee, però tale da non mettere in ginocchio le possibilità di una più forte crescita greca. Di fronte a questa lettera, che conferma quello che si era detto lunedì, ancora una volta la Commissione europea, questa volta Juncker, dice: mi sembra l'inizio di una buona base per fare un negoziato e un accordo. E di fronte a questo, di nuovo oggi, Berlino, fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze tedesco hanno detto no, questa lettera e richiesta formale della Grecia non identifica le condizioni precise di un accordo avanzato dalla Grecia, chiede solo degli aiuti e noi così non ci possiamo stare. Allora, questa è la fotografia a oggi. È stato convocato per domani pomeriggio un Eurogruppo straordinario, quindi a domani pomeriggio si vedrà i contatti che a questo punto iniziano a essere evidentemente sotto la superficie tra i diversi paesi membri dell'Unione Europea. Ripeto, l'Italia fino a questo momento è stata molto molto prudente, quello che è evidente è che la Francia invece rappresenta il ponte verso le proposte di 6 mesi per ritrattare con la Grecia, e bisognerà vedere gli altri paesi membri di fronte alla posizione netta tedesca come la pensano. A questo punto la domanda diventa, su cui interrogare i nostri ospiti e chiedere a voi di intervenire: come la pensate? Ha più senso una richiesta di tempo senza precisare prima quali sono le condizioni precise del programma di rientro greco, sia pur nuovo rispetto a quello precedente della Troica, e quindi appoggiare la richiesta greca da una parte, e dall'altra invece no, ha senso pretendere degli impegni precisi, magari ridefiniti e diversi rispetto al passato, ma questi impegni devono uscire fuori subito, perché altrimenti prendere tempo, la storia dell'eurocrisi ci ha insegnato che prendere tempo significa far emergere solo guai per il paese che sono investiti direttamente, ma per tutta l'area dell'euro. Queste sono le due corni del dilemma. Allora, questa stessa domanda la pongo da subito ai nostri ospiti. Innanzitutto Dimitri De Liolanes, che lo conoscete in questi anni e in questo periodo interviene spessissimo nel dibattito pubblico italiano, è corrispondente della TV pubblica greca RT ed è autore anche del libro La sfida di Atene, Alexis Tsipras verso l'Europa dell'austerità. Buon pomeriggio Dimitri, grazie. Buon pomeriggio a voi. E poi è con noi anche la controparte, diciamo così, ma anche ancora una volta un giornalista, e conoscete anche lui, corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tobias Piller. Buon pomeriggio e grazie Tobias di essere buonasera, con noi. Buonasera, buon pomeriggio. Allora Dimitri, comincerei con te. Per me è una non sorpresa quello che sta avvenendo, l'ho scritto fin dall'inizio, ho detto spero che Syriza faccia la tosta e così si capisce con che Europa siamo, con che Europa siamo di fronte, come la pensano gli altri paesi. Però adesso siamo al dunque, per così dire. Come pensi che la cosa potrà evolvere? Allora, guarda, io sono sempre stato molto positivo e molto così, ottimista rispetto al... Questo è un gioco nel quale nessuno interesse a provocare una rottura, però è un gioco che dovrà avere per forza un vincitore e un vinto. Io penso che la mossa di Varoufakis, quella di presentare la richiesta di prorogare il programma di assistenza ad Atene, che era scaduto alla fine del 14, poi prolungato di 2 mesi, sì, a fine febbraio, e adesso si chiede il prolungamento per appunto un semestre, ed era esattamente la richiesta che aveva fatto con il suo ultimatum Dijsselbloem alla fine dell'Eurogruppo di lunedì, sì, ai riferiti. Sì. Sì. Ovviamente c'è un trucco qua. Dijsselbloem intendeva: voi dovete chiedere il prolungamento del vecchio programma con tutte le condizioni, esatto, che comprende, sono 19 punti, molti dei quali sono assolutamente insopportabili, non dall'attuale governo di Tsipras, ma anche dal precedente governo di centrodestra di Antonis Samaras, quindi ulteriori tagli, ulteriori licenziamenti e cose assolutamente improponibili nella Grecia di oggi. Cosa è successo? È successo che Varoufakis ha preso sottoposto la domanda di prolungamento, scritta in maniera molto molto molto attenta, in maniera da distinguere tra il prolungamento che richiede effettivamente Atene, ma senza citare, come giustamente il ministro tedesco notava, senza citare gli impegni, cioè mettendo sul piatto della trattativa quali impegni Atene avrebbe preso nei confronti dei partner europei e quali no. Sappiamo perfettamente che ci sono degli impegni verso i quali, che sono presi nella famosa documento di Moscovici di lunedì scorso, che è stato poi cassato, ma non visto, fammelo dire, che sono impegni verso i quali Atene è positivamente disposta, le riforme vere sul sistema fiscale, sul sistema dell'apertura dei mercati, eccetera, eccetera. Ma ci sono le riforme, tra virgolette, che sono così tali per nessun motivo ci fosse disposto ad accettare. E sarà tutta lì la trattativa. Quindi se abbiamo impiegato mezza settimana a presentare in maniera così, a redigere in maniera così precisa la lettera di prolungamento della cosa, figuriamoci poi sulle condizioni quanto tempo ci vorrà. Quindi tu dici, in realtà nessuna rottura neanche domani, c'è un interesse comune convergente a cui la Germania non si può sottrarre, vedi anche l'intervento degli americani che, come si prevedeva ieri, ha iniziato a essere evidente per dire non fate scherzi rispetto alla necessità di tenere la Grecia, il paese attualmente diciamo più solido nell'ambito NATO del sud orientale, visto che la Turchia oramai contro ISIS non collabora. Tu dici l'interesse anche domani sarà a evitare una rottura, i tedeschi non possono fare a meno di tenere conto di questo, ci vorrà tempo. Ho sintetizzato bene? Benissimo, benissimo, esattamente questo. Allora, Tobias Piller, invece, qui dall'altra parte c'è la Germania, non da sola, perché lo sappiamo, c'è l'Olanda, ci sono i paesi nord europei, i paesi baltici e così via, che dicono non possiamo ricommettere questo errore, perché o siamo precisi nel dire in che cosa cambiamo gli impegni precedenti, però lo diciamo da subito, oppure diamo l'idea che tutto il castello di regole va a pallino. In che cosa sbaglia la previsione, se la sbaglia secondo te, Dimitri Delionianis, dicendo che la Germania non si può permettere per tutta una serie di regioni, la crisi ucraina, quella di ISIS, la pressione americana, l'evidente posizione distinta della Francia, ma domani non potrà rompere e bisognerà prendere altro tempo. Tu la pensi così? Sono più pessimista, diciamo, perché c'è una grande asimmetria in tutto questo. Se i rappresentanti della Spagna, della Germania o dei paesi baltici e altri venerdì prossimo o anche domani o la prossima settimana tornano a casa facendo nulla, loro possono anche essere relativamente tranquilli, ma i greci hanno un problema. Se invece si fa un accordo con i greci, il ministro tedesco per esempio deve correre al Parlamento tedesco, il Bundestag, e deve avere così in una velocità da espresso a così spiegare perché vuole fare ancora accordi con la Grecia e deve avere l'approvazione, e così devono fare tanti altri governi che devono chiedere il loro al Parlamento. Poi altro elemento è che oggi come oggi ci sono nell'Unione Monetaria 5 paesi che sono più poveri della Grecia: Portogallo, Slovacchia, Estonia, Lituania e Lettonia, e ci sono 2 paesi come Slovenia e Malta che adesso hanno superato la Grecia, ma così no, neanche loro devono così vedere una ragione di forza per così contribuire loro a un maggior benessere dei greci. Poi ci sono paesi come Spagna, Portogallo e Irlanda che hanno portato alla propria popolazione un duro programma di ristrutturazione e che se adesso dicono ai greci ma voi potete avere soldi anche senza ristrutturazione, così toglierebbe proprio la legittimazione che hanno loro dato al loro popolo per questi sacrifici che hanno chiesto negli ultimi anni. Così c'è una grande asimmetria. Il problema di fondo è più di principio. Quando si è fondato l'Unione Monetaria si è detto ognuno mette a posto la propria casa, proprio nessuno può affidarsi all'aiuto degli altri quando sta nei guai, così si cercava di impedire dei meccanismi che un politico di un paese dice vabbè posso fare anche cose speculate e poi vengono gli altri. Poi questo principio è stato rotto aiutando vari paesi e ha costato anche sacrifici politici in vari paesi, anche a Merkel, Schäuble e altri, che dicendo no, non stiamo più con questo principio, aiutiamo. Ma il principio era diamo soldi per anche finanziare un aiuto a questi paesi che devono aiutare se stessi, così fare riforme per far crescere un'economia privata, per creare uno sviluppo basato su un'economia privata. Adesso invece Tsipras sembra di aderire a un altro modello, non vuole più queste riforme verso uno sviluppo di un'economia privata, ma pensa che di creare spesa con spesa pubblica, con spesa sociale, creare solo così una crescita. Lui dice basta questo per crescere e in questa situazione così un Schäuble ma anche un ministro baltico dicono ma allora questo solo consumo, perché dobbiamo noi pagare le promesse elettorali di signor Tsipras? Se lui li vuole mantenere, li mantenga così con i propri mezzi, faccia quel che vuole, ma non dobbiamo noi tutti europei mettiamo insieme i soldi per pagare le promesse di signor Tsipras ai greci. Ok, ricordo tutti che in effetti per esempio agli estoni che hanno salario minimo per legge 520 euro, spiegare bisogna aiutare chi lo vuole riproporre oltre 750, diciamo qualche problema pone rispetto a chi governa in Estonia, cioè queste asimmetrie esistono. Per Rajoy in Spagna tornare a casa e dire no, noi siamo d'accordo con la Grecia significa consegnare alle prossime elezioni, come inevitabile e a quel punto anche giusto, la vittoria a tavolino nei sondaggi va già molto forte a Podemos. Purtroppo tutte queste variabili politiche, e inevitabilmente non solo purtroppo, sono in campo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:48 e 40 secondi per riflettere sul punto morto e la nuova rottura che si è verificata oggi dopo le richieste messe per iscritto, come gli era stato chiesto dalla Grecia, e il no tedesco che dice no, in queste richieste non si capisce quali siano i termini del nuovo programma di sostenibilità. Eurogruppo straordinario domani, abbiamo sentito le prime opinioni di Dimitri De Lioiannis che dice ho capito, ma è tempo, vedrete che il tempo è interesse convergente di cui non potranno farne a meno tutte le parti, perché nessuno ha interesse a dire alla Grecia vai fuori dall'euro subito passando per una gravissima crisi finanziaria o oltretutto uscire dalla Grecia significa mettere vincoli di capitale, vincoli sulle banche, vincoli sui ritiri dei depositi, significa un abbattimento immediato del valore del risparmio e patrimoni di molte decine di punti rispetto a quello che poi quando si arriva dopo 2 settimane di vincoli a stabilire, a ritornare alla dracma, ridenominato tutto in dracma, irredenominabile nel sistema dei pagamenti, a quel punto si vedrebbe di quanto poi il cambio sull'euro fluttuante sul mercato sarebbe inferiore e tutto varrebbe a quel punto in termini inferiori, significherebbe tutte queste cose qui. Però, dice Dimitri, non è interesse di nessuno una cosa simile. Tobias Spiller dice sì, però non potete dimenticarvi che dietro la posizione tedesca ci sono moltissimi governi europei che non possono spiegare ai loro elettori e devono passare per il Parlamento. Oltretutto c'è un vincolo preciso in Germania sulla mutualizzazione del sostegno ai problemi altrui, richiamato all'atto della firma dei trattati e di cui è derivato anche, come sapete, l'interpello della Corte di Karlsruhe alla Corte Europea. Non dimenticate tutto questo, perché se ci dimentichiamo tutto questo, dice Tobias, poi non ci dobbiamo stupire se la cosa invece esplode in una crisi. Allora, vediamo come la pensano alcuni di voi. Sugli sms, devo dire, vi dividete equamente. C'è chi dice comunque l'interesse dell'Italia è quello di dare una mano alla Grecia e alla dignità e al realismo rispetto a quello che hanno pagato, e non vale solo per la Grecia, molti di voi dicono dovrebbe valere come interesse comune per tutti gli eurodeboli, Spagna, Portogallo e così via. Però tenete conto che gli altri paesi in cambio di aiuti hanno dovuto sputare il sangue, quindi è una condizione un po' diversa dalla nostra. Noi non dimentichiamocelo, abbiamo avuto più di 100 miliardi di titoli europei comprati dalla BCE. A tutti quelli che dicono che l'Italia non ha avuto aiuti, a me scappa sempre da ridere. Certo, non abbiamo avuto però i 50 miliardi che ha avuto la Spagna per il sistema bancario che era esploso, per così dire. Andiamo alle telefonate. Mariano da Torino, come la pensa Mariano? Sì, sono in linea. Eccoci, vada pure. Eccoci qua. Allora, ringrazio per l'ospitalità, solo qualche osservazione, che mi rendo conto che i tempi della trasmissione sono abbastanza stretti. Allora, io volevo dire che il problema dell'Europa, o per meglio dire dell'Eurozona, volendo fare una giusta distinzione, non è la Grecia in questo momento, è la Germania. Ed è ben chiaro perché è la Germania. La Germania sta conducendo una politica, tra l'altro suicida anche nei suoi confronti, perché sta segando il ramo dove è seduta. Strano come le elite finanziarie e industriali tedesche arrivino a non capire questo. Questa è veramente una follia, condurre una politica di questo genere che alla fine sarà distruttiva, perché non può che essere così. Imporre i sacrifici che sta imponendo ai popoli, alla fine, anche al suo popolo, anche al popolo tedesco, perché il popolo tedesco potrebbe stare molto meglio di quanto non sta. Le famose riforme del mercato del lavoro, i pacchetti Arz, secondo lei non hanno fatto bene, non hanno rialzato la produttività bloccando l'aumento del costo del lavoro, ridando competitività, ma e quindi certo, ma pro domo loro e non di tutti i tedeschi, perché lo sappiamo bene che esistono milioni di tedeschi, forse 5-7 milioni che hanno i mini job e che poi arrivano a un'integrazione del reddito accettabile solo con il trasferimento da parte dello Stato. Non sono 7 milioni, sono milioni. La locomotiva tedesca non è una locomotiva. Mariano, d'accordo, io adesso non voglio, ho capito il suo punto di vista. Si ricordi che prima la Germania era al massimo disoccupati nel dopoguerra, quindi non è che, voglio dire, senza quelle riforme stavano nell'Eden, erano il malato europeo nel 2001, secondo l'Economist. Poi, per carità, io so, Mariano, che il suo punto di vista è un punto di vista probabilmente maggioritario tra gli italiani di oggi, non è il mio, ma lo rispetto, ci mancherebbe. Lorenzo da Brescia, prego. Lorenzo. Sì, buongiorno. Partiamo già dal presupposto che non riescono neanche a pagare questi e già gli diamo ancora dei soldi. A me manca, se sono sotto, se non ho altre preoccupative, di soldi non me ne danno. Uno. Secondo, ma una curiosità, se dovrebbero comunque riuscire, diciamo, a superare questa crisi, non questa crisi, i pagamenti, perché la crisi non la superano, i pagamenti che hanno, ma mettono in ginocchio un paese che non riusciranno più a avere nessun via di fuga né niente. Voglio sapere cosa succede a quel punto qua. Ci sarà la Germania che compra la Grecia o la Russia? Quindi Lorenzo, da una parte dice il principio del i debiti si rispettano, perché altrimenti diventa asimmetrico. Anche per me vale questa regola. Io non credo che la democrazia sia il regime dove vincono i creditori, cioè le banche che prestano molto, ma non è neanche il regime dove dei debitori che dicono non pago il debito, perché quelle sono le commedie napoletane di Don Felice Sciosciamocca e a me non piacciono molto. Però dall'altra parte, ci dice l'ascoltatore, la Grecia quanto può fare in più? Dimitri, in 30 secondi, secondo te qual è il margine vero che la Grecia può dare ancora sulle riforme, se blocca le privatizzazioni eccetera eccetera, cioè le cose che Tsipras alla fine, per evitare il blocco, può dire ai tedeschi: questo io lo posso fare, cosa sono? Ma l'ha già detto nella lettera, c'era compresa la lettera di Moscovici, e sono accennate, diciamo, una lettera presentata tra ieri sera e stamattina, non si sa esattamente quando. Sono la riforma del sistema fiscale, sono la riforma profonda dell'amministrazione pubblica, l'apertura del mercato, della concorrenza, abbattere in sostanza gli oligarchi che finora hanno impedito questo tipo di riforme sotto i 5 anni, diciamo così, di controllo della Grecia da parte della Troica. Posso aggiungere una cosa? Certo. Per dare ragione a Tobias, io do ragione a Tobias, la questione è profondamente politica, perché effettivamente c'è un governo per la prima volta dell'Eurozona che dice un no a questa politica applicata negli ultimi 5 anni, e questo crea enormi problemi politici a chi l'ha sostenuta questa politica. Allora, Tobias, per concludere, secondo te invece, anche te in 30 secondi, il margine Merkel-Schäuble a casa propria in Germania qual è? Non è molto grande, il punto è poi Tsipras ha appena vinto le elezioni e mi sembra abbastanza stupido voler massimizzare oggi la sua popolarità. Oggi potrebbe essere più conciliante, se oggi sarebbe più conciliante potrebbe anche avere un'economia greca che potrebbe già, era già sui blocchi di partenza per una grande crescita quest'anno, e potrebbe riprendere, e potrebbe in quel caso poi trattare delle condizioni sociali per la forse popolazione greca che soffre. E ricordiamo invece è tornata in recessione, almeno dagli ultimi segnali. Speriamo di no. Comunque, appuntamento all'Eurogruppo di domani. Continuate con la 24 anche per quello che sta succedendo a Roma. Grazie a Tobias Piller e Dimitri De Leonanes.